GR Europa. Un saluto a tutti da Gigi Donelli. Noi ripartiamo dal vertice europeo previsto per giovedì a Bruxelles con un nuovo rischio spaccatura stretta tra il rischio che il Parlamento UE mandi all'aria l'accordo sul bilancio, la resistenza degli stati del nord alle richieste dei paesi più deboli di sgomberare la via della crescita dagli ostacoli del rigore. Su tutto pesa l'incognita Italia, che arriva sul tavolo di un vertice europeo appunto innervosito da parecchi dossier. Intanto a Strasburgo, plenaria del Parlamento, battute finali per la politica agricola comune, mentre sul budget il Parlamento stesso manda un segnale diretto proprio al vertice dei capi di Stato e di Governo. Allora, sui passi in avanti fatti sul dossier agricoltura e sui quattro capitoli della PAC abbiamo sentito il presidente della Commissione Agricoltura, Paolo De Castro. Siamo arrivati nella parte finale del processo. La Commissione Agricoltura il 23-24 di gennaio aveva votato i circa 200 emendamenti di compromesso in tutti e quattro i dossier legislativi che compongono la riforma della politica agricola comune. Domani in aula verrà chiesto un voto dell'aula sul mandato negoziale per tutti e quattro i dossier. Quindi, se come io immagino avremo una larga maggioranza a sostegno del mandato negoziale, si andrà poi al lavoro con il Consiglio, quelli che noi chiamiamo i triloghi, col Consiglio e la Commissione, per concludere, ci auguriamo, entro la presidenza irlandese, entro giugno di quest'anno, e avere una PAC che entrerà in vigore il 1 gennaio 2015. Ma avete appena votato una risoluzione contro il budget europeo che incide ovviamente sulla PAC. Non è ancora un rigetto vero e proprio, ma è un segnale. Noi siamo contrari a questa idea dei capi di Stato e di Governo, e per questo io credo sia importante votare contro un impianto dei capi di Stato e di Governo che hanno di fatto escluso dai loro negoziati il Parlamento. Il Parlamento deve entrare nei negoziati e molte delle cose decise dai capi di Stato e di Governo dovranno cambiare se si vuole il voto positivo del Parlamento europeo. L'intervista è stata realizzata da Valeria De Rosa. Intanto il Parlamento ungherese ha approvato le modifiche costituzionali volute dal governo di Viktor Orban. L'Europa torna a protestare, preoccupata per una deriva autoritaria nel cuore dell'Unione. Tira dritto il premier ungherese Viktor Orban, incurante degli appelli europei. Ieri per la quarta volta ha modificato la Costituzione del paese, limitando i poteri dell'Alta Corte e introducendo una serie di norme che limitano seriamente i diritti civili. Nei fatti la Corte Costituzionale ungherese viene esautorata dall'avere l'ultima parola sulle leggi del governo quando queste vengono approvate da una maggioranza di 2/3 dei deputati. Peggio ancora, sono stati annullati i verdetti precedenti della Corte, cancellando così oltre 20 anni di giurisprudenza. Nel pacchetto votato ieri, conosciuto come il quarto emendamento, sono presenti nuove limitazioni della libertà individuale. Gli studenti che ricevono borse di studio statali non potranno emigrare all'estero per 10 anni, i clochard non potranno più dormire nelle strade, mentre la legge non considererà altre forme di famiglia diverse dal matrimonio tra uomo e donna. Con questo pacchetto il governo Orban di centrodestra compie un ulteriore passo di allontanamento dagli standard europei, avvicinandosi a quelli dei paesi autoritari. Gli emendamenti alla Costituzione ungherese destano preoccupazione per il rispetto dello Stato di diritto, delle leggi europee e degli standard del Consiglio d'Europa, così in una dichiarazione congiunta Commissione Europea e Consiglio d'Europa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E infine una notizia che riguarda il disastro di Fukushima, le verifiche degli stress test sulle centrali nucleari europee. La Commissione europea è pronta a presentare entro aprile la sua proposta di direttiva sulla sicurezza degli impianti, poi arriverà quella di un regolamento che prevede l'obbligo di assicurazione per ogni danno potenziale. L'annuncio è arrivato dal commissario europeo all'energia Günther Oettinger di fronte all'Assemblea di Strasburgo. E con questo è tutto. Roberto Scaltritti in regia, Gigi Donelli al microfono. L'appuntamento con l'Europa domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.